Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Questa sera è tornata a trovarci Selene Biffi, che avevamo intervistato a proposito di Spillover, una startup che sviluppa videogiochi che uniscono divertimento e apprendimento. Intanto buonasera Selene. Buonasera Maurizio, buonasera a tutti. Allora, Selene Biffi è una startup seriale. Prima di questa Spillover di cui avevamo appunto già parlato, aveva già avviato altre startup, almeno un paio delle quali con un forte focus su alcune delle zone più martoriate del mondo. Intanto una di queste startup ci riporta un po' verso il tema di Spillover, cioè l'idea che si possano trasmettere dei contenuti culturali più o meno importanti, insomma, ma attraverso dei mezzi non convenzionali. Spillover si appoggiava sui videogiochi, qui se non sbaglio parliamo di fumetti. Sì, esatto, si tratta di Plain Ink, che mira a fornire competenze di tipo tecnico a bambine e comunità in paesi in via di sviluppo proprio attraverso le storie, i fumetti e i libri. Quindi insomma utilizziamo una metodologia legata allo storytelling per incidere su quella che è la realtà locale. Ecco, che tipo di conoscenze passate con questo approccio, insomma? Diciamo che le competenze che vengono trasmesse sono di vario genere, si va dalla salute pubblica alla mitigazione dei disastri naturali, passando per la sicurezza alimentare fino ad arrivare ad esempio all'istruzione legata alle mine. Ah, d'accordo, ecco, quindi vengono distribuiti, non so, nelle scuole questi fumetti, funziona così? Sì, Plain Ink in realtà ha programmi che prevedono la distribuzione di fumetti, nello specifico in zone rurali e bidonville in India, mentre in Afghanistan, dove l'utilizzo del fumetto non trova forse sì, grande accoglimento dal punto di vista culturale, abbiamo aperto una scuola per formare cantastorie, dove quindi i messaggi tecnici vengono proprio trasmessi tramite l'oralità, in un paese dove 8 persone su 10 sono oggi analfabete. Eh già. Ecco, a proposito di Afghanistan, paese che come noto ha un problema grave che è quello delle mine. Bibac è una startup nata appunto per affrontare in modo innovativo, con uno strumento diciamo innovativo, questo problema. Di cosa si tratta? Bibac racchiude già nel nome quella che un po' è la sua mission, significa infatti senza paura, coraggioso in persiano. L'idea è quella di fornire tecnologia facilmente assemblabile e facilmente utilizzabile alle comunità che purtroppo vivono in zone dove le mine sono un problema pregnante. L'Afghanistan è uno dei 5 paesi più minati sì, al mondo e si parla di circa 10 milioni di mine presenti sul proprio territorio. Qui la novità qual è del vostro marchingegno? Perché insomma adesso di metal detector e roba varia ce ne sono, insomma, no? Assolutamente sì, la novità è quella di fare in modo che innanzitutto siano 3 le tipologie di sensori utilizzati, quindi andiamo ad aggiungere dei pezzi a quello che è il sistema tradizionale di detection delle mine, generalmente un metal detector, in alcuni casi un metal detector più un georadar. Lo facciamo assemblandoli con un microprocessore, in genere di base è un Arduino, quindi sì, se vogliamo ci rifacciamo un po' a quello che è il movimento dei maker, e poi fondamentale per noi è l'accompagnamento delle comunità nell'utilizzo e nella gestione di questi sensori, che una volta che lo sminamento viene effettuato possono tranquillamente essere riciclati e ad esempio essere utilizzati per produrre energia o per regolare il flusso dell'acqua per l'agricoltura. Ah, d'accordo, quindi si possono riutilizzare la componentistica compresa quella elettronica. Ecco, una cosa importante è che poi sono proprio le persone del luogo che procedono allo sminamento, voi li istruite e poi ci pensano loro sostanzialmente, giusto? Noi li istruiamo e ovviamente li affianchiamo durante il processo di sminamento, quindi in realtà c'è un'attenzione differente e tutto quello che una comunità riceve, quindi tecnologia e istruzione, rimane poi in definitiva alla comunità stessa e diventa la base per una creazione autonoma di sviluppo locale. D'accordo. Senta, una domanda che penso si stiano anche facendo diversi ascoltatori è: ma questo è impresa o è volontariato? Diciamo che si tratta in realtà di impresa a tutti gli effetti, quindi imprese che hanno bisogno di business plan, imprese che hanno bisogno di essere sostenibili e che hanno bisogno di personale qualificato. L'idea infatti è stata poi fortunatamente anche ripresa e promossa grazie alla legge 221 del 2012, sì, la legge cardine, se vogliamo, in Italia per il movimento delle start-up, che per la prima volta presenta una forma innovativa che è quella della start-up a vocazione sociale e quindi, se vogliamo, apre una serie di possibilità a chi ha intenzione di utilizzare le tecnologie e il digitale per produrre cambiamento effettivo e concreto in vari ambiti. Grazie, grazie Selene Biffi. Grazie a voi. Buonasera e alla prossima.